Un figlio di nome Gesù. Leggo nel Vangelo di Matteo, capitolo 1, versetto 21, nella Bibbia. Ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Il calendario segna il 24 di dicembre. Per molti è un giorno particolare in cui celebrare, per convenzione, visto che non si conosce la data precisa, la nascita di Gesù, nella notte, in una grotta di Betlemme più di 2000 anni fa. In pratica però, oggigiorno è una festa che viene festeggiata anche da chi non è credente, da chi non ha interessi particolari nella nascita di Gesù e certamente non veglierà in preghiera nella notte. È ormai entrata a far parte della tradizione occidentale come un'occasione per una grande abbuffata e scambiarsi dei regali. Conosco persone assolutamente non credenti che augurano comunque Buon Natale per abitudine e non rinuncerebbero ad una serata in cui si possa tirare fino alle ore piccole, indipendentemente dalla motivazione. Negli ultimi anni molti hanno iniziato a sostituire il Buon Natale con buone feste o in inglese season greetings, qualcosa che accontenti tutti, indipendentemente dalla religione professata. Avendo dei bambini ancora piccoli, negli ultimi anni ho potuto vedere che anche le feste svolte negli asili e nelle scuole elementari sono sempre più politicamente corrette, per accontentare anche la maggioranza sempre più allergica al cristianesimo, con canzoncine che si riferiscono al Natale con generici auguri di pace, prosperità, felicità, ma, badate bene, senza accenni a Gesù. Come credente, è ovvio, non ho bisogno di un giorno specifico sul calendario per ricordarmi della venuta del Salvatore Gesù in questo mondo, ma sarei comunque contento se per una volta anche coloro che a Gesù non ci pensano mai lo facessero. Insomma, preferirei che il protagonista di questa notte fosse davvero Gesù, piuttosto che quel vecchietto vestito di rosso. Sì, ma il vecchietto vestito di rosso accontenta tutti, credenti e non credenti. Anche lui è politicamente corretto. Nessuno odia quel simpatico pacioccone di Babbo Natale. Eppure tanti odiano Gesù. Ci avete mai pensato? Invece di pensare solo a mangiare e scartare dei regali, perché non approfittare di questa sera per riflettere sul grande mistero dell'incarnazione? A Maria fu annunciato che avrebbe partorito un figlio e il suo nome sarebbe stato Gesù. Un nome che ci ricorda che Dio salva. Gesù sarebbe letteralmente stato la salvezza di Dio, perché avrebbe dato la sua vita per i peccati non solo del suo popolo, ma di tutti i popoli della terra, di ogni epoca. Tra tanti alberi di Natale e Babbi Natale, sarebbe davvero bello parlare anche e soprattutto di Gesù, il Salvatore del mondo, nelle nostre famiglie. Per me sarà così, come d'altronde tutti gli altri giorni dell'anno.